Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, avete sentito almeno due notizie dell'attualità europea. Altre notizie ci portano sul tema dei pannelli solari, del rapporto piuttosto controverso Europa-Cina. Entrano in vigore domani i dazi anti-dumping. La Commissione l'ha annunciato a seguito di un voto favorevole in Consiglio. Nel frattempo, circa il 75% degli esportatori dalla Cina verso l'Europa hanno accettato un'intesa amichevole proposta dalla Commissione. Sentiamo il servizio di Valentina Furlanetto. Scoppia la pace tra Cina e Europa a colpi di dazi. Potrebbe sembrare una contraddizione, ma così invece vanno le cose. Dopo aver rischiato una guerra allargata a tutti i settori dell'import-export, il Consiglio europeo ha dato il suo ok alle misure anti-dumping e anti-sussidi nei confronti dei pannelli solari cinesi. Nonostante l'imposizione di una tassa per contrastare la politica di dumping riconosciuta dall'Unione contro le aziende cinesi che hanno volutamente abbassato i prezzi per imporsi sul mercato europeo, in realtà i dazi sono il frutto di un accordo che dovrebbe mettere fine a questa contesa e anche ad altre. We found a compromise on the minimum price and on the volume for solar panels. Abbiamo trovato un compromesso su un prezzo minimo e un volume per i pannelli solari. Penso che sia il modo giusto per procedere, ha detto Bernd Lange del gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo. I ministri hanno dato il loro ok a un accordo amichevole che la Commissione europea aveva trovato con la Cina già a fine luglio e prevede dazi solo per gli esportatori cinesi che non partecipano all'intesa e quote di esportazione per gli altri. Le misure entreranno in vigore domani e si applicheranno per 2 anni. L'intesa coinvolge un centinaio di esportatori cinesi che riforniscono circa il 60% del mercato europeo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fondi europei 31 miliardi per l'Italia, ma attenzione ai termini. A poche settimane dall'avvio della nuova programmazione dei fondi strutturali, l'Italia non ha ancora inviato a Bruxelles la bozza dell'accordo di partenariato con l'Unione Europea, il documento che impegna ogni Stato membro sugli obiettivi da raggiungere con i fondi da qui al 2020. Perciò qualche giorno fa i 4 commissari responsabili del Fondo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale e dei Fondi per la Pesca e lo Sviluppo Rurale hanno inviato una lettera al governo italiano sollecitando la definizione e l'invio dell'accordo che era atteso già dall'estate scorsa. Ora il ministro per la coesione territoriale Trigilia si è impegnato a farlo entro la prossima settimana, ma la commissione è un po' scettica visto che l'impegno è stato più volte disatteso nei mesi scorsi e soprattutto alla luce dei contrasti ancora non risolti tra il ministero e le regioni sulla distribuzione dei 31 miliardi di euro assegnati all'Italia. Il rischio è che ancora una volta l'Italia arrivi in ritardo ai nastri di partenza, come già accaduto nella precedente programmazione, senza avere poi le capacità di recuperare. Giuseppe Chiellino per Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di scommesse illegali del calcio, ma non solamente. Un intervento ieri da parte del presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. C'era per noi Dario Ricci. Una pandemia inarrestabile che si sta abbattendo non solo sul calcio ma sull'intero sport europeo è quella delle scommesse illegali. Non sorprende allora che per un giorno la sala plenaria di Bruxelles diventi il campo dove l'Unione gioca la partita per uno sport pulito. I dati fanno impressione. Da agosto a dicembre 2013 Federbet ha individuato più di 50 partite truccate, altre 150 sospette, interi campionati come quelli di Cipro e Malta decisi a tavolino. Soluzioni? A indicarle quei procuratori che hanno infiammato il calcio nostrano con le varie ondate di calciopoli e scommessopoli, tutt'altro che finite. Roberto Di Martino, titolare dell'inchiesta di Cremona. La cosa più importante è che ci sia un intervento delle istituzioni europee in modo che la legislazione sia sportiva, ma soprattutto quella, diciamo, penale, nei vari stati venga uniformata. E poi pene più severe, sanzioni pecuniarie, tracciabilità dei movimenti finanziari degli scommettitori, formazione e prevenzione per i calciatori fin dalle giovanili. Sfida difficile, ma facendo sistema con l'Europa anche l'Italia può vincere la sua partita. Ciro Angelillis, procuratore a capo del filone barese di scommessopoli. Io penso che la parte marcia è ancora relativa, è ancora limitata. E quindi se ci diamo una mossa riusciamo a risolvere il problema. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E con questo è tutto. Europa 24 torna domani alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.